Buonasera a tutte le persone in ascolto. Buonasera, buonasera a tutte le persone in ascolto, benvenute, benvenuti e benvenuto su Radio Wombat e benvenuti su questa nuova trasmissione del palinsesto Wombato. Io sono Genge, la voce senza volto che stasera vi accompagnerà e questo è il tempo delle pere. Tell me that it's true. Show me what to do. I feel something special about you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how. Allora, benvenute, benvenute persone all'ascolto, benvenute persone che sono con me qui dai Frittole Studios. Ci troviamo anche questa domenica in questo metaluogo, in questo spazio non spazio che ospiterà questa puntata che per un periodo sarà un po' itinerante, insomma, viaggerà in giro per regie diverse, disparate e vedremo come andrà. Questa è la prima puntata, una puntata un po' fantasma e insomma non esiste attualmente un sito, una pagina sul sito di Wombat, non c'è nel palinsesto, quindi arriviamo un po' così all'intrasatta in questa domenica sera. Per parlare di cosa? Allora, che cosa parleremo qui sul Tempo delle Pere? Si parlerà di relazioni. Relazioni in senso lato, quindi in senso lato, stretto, lungo, largo. Parleremo di tantissime cose, insomma, e diamo un po' spazio alla mia voglia di parlare di cose. E buonasera, buonasera, qui con me buonasera. In studios c'è Slim che mi accompagnerà emotivamente e verbosamente questa sera. Ciao a tutte e tutti. Grazie Slim di essere qui. C'è anche un'entità silente che presiderà il funzionamento tecnico di questa puntata. Grazie di essere qui. Bene, vi ricordo innanzitutto che si può partecipare attivamente alla diretta andando sul pad della diretta, direttawombat.vado.li, e dove potete scrivere tutto quello che vi viene in mente, saluti, ciao mamma, guarda come mi diverto, suggerimenti, e insomma rendere questa diretta un po' più interattiva. Siamo in due qua in studio, è una situazione bella rilassata, tranquilla, quindi ci sta avere un po' di interazione, no? E cosa indichi Slim, dimmi. Per scriverci sul pad andate sul browser e digitate wombat.vado.li. diretta Wombat, appunto. Diretta Wombat. Punto punto vado, punto lì, esatto. E poi ricordiamo anche la mail frittole.gattini.ninja per mandare, ecco, se avete un contributo un po' più elaborato che volete studiarvi, analizzare e poi mandare in formato PDF a questa mail, possiamo studiarcelo e parlarne nella prossima puntata. Allora, innanzitutto voglio fare una domanda generale sia alle persone in ascolto sia al qui presente Slim. Se dico relazioni, qual è la prima cosa proprio che ti viene in mente? A me viene in mente qualsiasi tipo, viene in mente le relazioni affettive. Però mi balza in mente questa rete di connessioni sottili fra tutte le cose. Ok, quindi non necessariamente un qualcosa di antropologico, relazione come qualcosa fra delle persone. La relazione è la trama dell'esistente. Bello, bellissimo. Mi piace tantissimo questa cosa. Mi chiedo se a tante persone, penso che magari non necessariamente fra le persone che ascoltano Radio Wombat, però diciamo un po' più in generale, secondo me, se dovessimo fare un test un po' più scientifico, prendere un campione random, secondo me tantissime persone alla domanda cosa ti viene in mente quando dico relazione, gli verrebbe in mente la relazione amorosa, sentimentale. Che dici? Sì, anche a me è balenato quest'idea. Quest'idea, infatti. Perché questo, per introdurre un po' il primo argomento che voglio affrontare, che è un po' il tema generale che voglio affrontare in questo... Madonna, ragazzi, ditemelo se sto urlando nei microfoni, scusate. Il tema che voglio affrontare un po' in generale, che è la cultura della monogamia, cioè che pervade tanto le nostre esistenze, il nostro modo di concepire appunto le relazioni, quindi il motivo per cui un po' relazione automaticamente ci viene in mente un qualcosa, dei copioni diciamo un po' stabiliti, un po' visti, che abbiamo nel nostro immaginario fin da piccole proprio anche, no? Sì, dei personaggi. Dei personaggi, delle dinamiche. Sì. Spesso ci troviamo a recitare una parte da noi non scritta e più parti da noi non scritte. Un po' questa sensazione, tu cosa ne pensi? Beh, io penso che sicuramente, soprattutto quando cresci, quando sei in una fase evolutiva in cui assorbi, si tende ad andare molto per emulazione, no? Tendiamo a riprodurre schemi, dinamiche, atteggiamenti che sono quelli che ci vengono proposti fondamentalmente. E non a caso, vivendo immersi all'interno della cultura della monogamia, che ora andrò un po' ad approfondire, assorbiamo quello che ci viene proposto, e quello che ci viene proposto è relazione uguale rapporto duraturo, stabile e chiuso di coppia, dove c'è l'amore inteso in senso romantico e il sesso, no? Ti torna un po'? Sì, mi torna. Beh, senza voler infamare chi in questi rapporti monogami ci si trova a proprio agio. No, assolutamente. Sinceramente. Assolutamente. Ma infatti, a tale proposito, visto che hai detto questa cosa, vorrei infatti leggere un po' l'introduzione di questa fanzine, che è una fanzine che si chiama Fare a pezzi la cultura della monogamia, che è una fanzine tra l'altro che è stata approfondita, se vi interesserà un po' questi spunti, in una puntata di Slick Chick, sempre sul palinsesto wombato trovate i podcast pubblicati sulle trasmissioni, è stata proprio letta diverse parti, ora prenderò un po' gli spunti, però è interessante perché nell'introduzione c'è proprio questa sottolineato: questo testo non è un attacco contro di te, e scrive proprio: la critica alla cultura della monogamia non riscuote molta simpatia perché la maggior parte delle persone della nostra società si identifica con il modello monogamico e quindi molte persone possono sentirsi criticate, offese o attaccate quando viene messo in discussione qualsiasi aspetto legato alla monogamia. E vabbè, questo innanzitutto. Ah, aspetta, vedi, ci scrivono: Ciao persone, che bello. Persone. Ciao Gen Gen. Ciao ragazzo. Relazione penso a legame, dicono. Relazione penso al legame, certo. E infatti, tra l'altro, l'etimologia della parola relazione viene dal latino relatio, relatus, e il participio passato referre, che significa appunto riferire, riportare, stabilire un legame. Quindi è effettivamente quello il concetto, diciamo, di base un po' più ampio, quindi qualcosa che è relazionato a un legame di qualche tipo. Grazie del contributo che mi ha fatto, ho potuto fare questa piccola parentesi molto etimologicamente noiosa. Ricordiamo che per scriverci diretta wombat.vado.li, scrivete questo sul vostro browser e magicamente vi comparirà un foglio formato Word, tipo, su cui poter un meraviglioso pad colorato. E quindi fare a pezzi la cultura della monogamia, perché questo penso sia un atteggiamento un po' generale, a prescindere dal che si parli di monogamia o di altre cose. Comunque quando si va ad affrontare un tema che è inerente a delle sfere personali della vita delle persone, una critica, che può essere anche semplicemente un approccio critico, quindi non vuol dire necessariamente dire che qualcosa è giusto o sbagliato, ma indagare, porsi delle domande su una questione, però viene visto come un attacco personale. Penso questa cosa anche, ad esempio, tantissimo sulle ideologie, no? C'è questo rapporto, rapportarsi a come si vivono le cose in modo molto identitario: quello che io penso mi identifica come persona, quindi se lo critichi stai criticando me personalmente. E quando si parla di non monogamie etiche, quando si affronta la questione, perché appunto può essere tranquillamente affrontata come una questione, quella della cultura della monogamia, non è assolutamente un tentativo di distruggere in qualche modo, di screditare un qualche tipo di qualsiasi tipo di stile relazionale, e anzi è proprio il contrario. E aprire nuovi scenari possibili. Assolutamente, cioè considerare tutti quelli che sono gli effettivi esistenti stili relazionali, poiché appunto quando si tratta di definire in qualche modo, se vogliamo etichettare, è un qualcosa di descrittivo, non di prescrittivo, quindi si tratta di riconoscere quelle che sono effettivamente le tantissime sfumature dei modi di vivere le relazioni delle persone, che comprendono chiaramente anche la monogamia. Infatti ci scrivono sempre sul magico pad: in effetti, ogni volta che racconto delle mie relazioni non monogame, mi sembra sempre che le persone con cui parlo si sentano giudicate perché loro fanno diversamente. Esatto, e questo penso che sia appunto una cosa che... Anche legata all'emulazione sociale. E... Sì, a volte ci si sente giudicati proprio perché ci si sente uniformati a una regola a cui non vorremmo sentirci conformisti, in un certo senso. Non vorremmo sentire che una persona ci sta ponendo in un... cioè ci sta facendo sentire come se non avessimo scelto sulla nostra vita. Sì. E io penso che questa è una cosa molto interessante, secondo me, cioè un po' quando qualcuno esce un po' dai binari del comportamento generale su qualsiasi aspetto della vita, è un po' un campanello d'allarme, forse è per questo che in molti casi viene visto come qualcosa da tenere d'occhio, no? Perché chi vive dalle relazioni al lavoro a qualsiasi ambito della vita in modo, io direi, autentico, quindi ascoltando i propri bisogni e le proprie inclinazioni, e quindi magari questi bisogni e inclinazioni lo portano fuori da questi cosiddetti binari, è semplicemente la dimostrazione del fatto che si può fare quella cosa diversa, magari, no? E secondo me tante persone, soprattutto se magari hanno sperimentato un po' qualche tipo di disagio con la loro condizione, hanno paura magari a pensare che quei disagi sono dovuti al fatto che magari quella condizione non gli appartiene in tutto e per tutto, non è autentica in quel senso per loro. Sì, poi si scontra anche con col contesto in cui l'individuo si trova. E ci sono contesti, anche culture, che permettono una maggiore esplorazione di altre possibilità relazionali, altre meno. E non diamo per scontato che nella società del sesso libero odierna ci sia veramente libertà emotiva. Non diamolo per scontato, non pensiamo che l'Occidente sia più avanzato in questo. Secondo me io personalmente non lo penso, poi non lo so, si potrebbe anche pensare un discorso di tolleranza delle divergenze, certo, dell'altro, di riconoscimento della diversità, io direi. Perché lo dico proprio riconoscimento, perché c'è qualcosa che esiste di fatto, la diversità non è un qualcosa che si crea artificialmente, anzi di solito l'artificiosità si trova quando c'è un tentativo di sintesi forzata, insomma, in un one size fits all. E tu hai usato la parola cultura, infatti non a caso si parla di cultura della monogamia, perché per indicare appunto quanto sia un insieme di strutture che sono legate appunto alla cultura, quindi hanno anche un'utilità in funzione della cultura all'interno del quale sono immerse e dalla quale scaturiscono. La cultura della monogamia viene definita infatti quella cultura in cui esiste un ideale dominante di relazione affettive sessuali monogame, come nella nostra società. E si parla di cultura della monogamia e non di monogamia in generale, perché la cultura della monogamia è quella che non si limita a promuovere le relazioni fra due solo persone con quei limiti che conosciamo, ma erge la fedeltà a massimo valore, esalta l'esclusività come unica prova d'amore e come tutte le culture dominanti, diciamo, perpetua questa visione di unicità e di naturalità di questo tipo di relazione. Naturalizzarla. Esatto, naturalizzare un qualcosa, come ad esempio appunto tutta il binarismo di genere, diciamo che appunto sono legate alla cultura della monogamia, è uno dei pilastri del patriarcato, forse uno che non viene spesso preso in considerazione. Appunto si pensa alla misoginia, all'omofobia, al binarismo di genere, ma la cultura della monogamia in realtà è strettamente interconnessa a questo altro, a questi altri tipi di oppressione, ed è funzionale al sistema patriarcale e al sistema capitalista nel quale ci troviamo. Thank you. sarebbe interessante anche capire un po' la storia della... capire un po' come si è arrivati a erigere questo culto della monogamia, anche se immagino sia difficile tracciare una storia, anche proprio perché questo culto avrà cancellato molte tracce delle divergenze, delle diversità. Sì, anche se nel caso della monogamia intesa come struttura sociale dove c'è una... Cioè, fondamentalmente in realtà questo è abbastanza identificabile con lo sviluppo e la diffusione del sistema capitalista. Se si pensa anche al modello familiare, al modo in cui è cambiato, insomma, il modello familiare mononucleare, padre, madre, figlio è qualcosa di abbastanza recente e appunto legato al modo in cui funziona il sistema capitalista e quindi alla necessità di diciamo avere una base nucleare della società che è sempre più ristretta fino a arrivare all'individualismo che è funzionale alla riproduzione di un sistema economico che quindi può delineare diciamo la produzione, i corpi e l'individualità come forza lavoro in maniera più facile, perché appunto è divisa in nuclei familiari che sono appunto definiti in dei canoni molto stretti ed è Con un tutto patriarca che assolutamente, appunto per questo è legata assolutamente alla cultura è al patriarcale. controllo. E quindi sì, al controllo, perché appunto è una le famiglie, insomma, i sistemi familiari come sono sempre esistiti, allargati, ristretti, comunitari, matriarcali, tutti quei sistemi familiari che banalmente esistevano ancora a livello di dinamiche anche nell'Italia, nel primo dopoguerra, nelle Sì, nella zone. civiltà contadina. Nella civiltà contadina, esatto, un sistema di genitorialità condivisa, ad esempio, quindi che non vede la visione di gestire la dinamica familiare unicamente appunto all'interno del nucleo con la relazione di sangue, ma una comunità che gestisce insieme queste cose sono delle cose che sono sempre esistite, sono esistite, continuate ad esistere anche intorno a noi fino a pochissimo tempo fa. Però appunto cosa ci scrivono? Cosa ci scrivono? Ciao Wombat, in una relazione poliamorosa può innescarsi in automatico un discorso di gerarchia. Stanno ancora Stanno ancora scrivendo. scrivendo. Non abbiamo fretta, aspettiamo, Aspettiamo che scrivete con scriva. calma. Sì. E comunque, appunto, pure riprendendo un attimo la fanzine, ci dice: la cultura monogama storicamente è stata parte del sistema di organizzazione sociale patriarcale con la funzione di garantire progetti economici stabili e per tutta la vita, con il fine di riprodursi e crescere figli legittimi ai quali trasmettere lo status sociale e la proprietà privata per perpetuare l'ordine e la gerarchia sociale esistenti. Quindi, cioè, queste tre righe proprio fanno capire appunto quanto è un discorso utilitarista quello di definire i limiti e i confini all'interno dei quali far viaggiare le dinamiche interpersonali, come ad esempio quelle relazionali o familiari, un discorso economico. È un discorso di proprietà privata, insomma, definire la coppia come nucleo serve per individuare una linea di trasmissione di status sociale, quindi anche di classe, di proprietà, quindi anche di potere economico. Sì, proprietà anche sugli individui proprio. Sì, assolutamente, nel ca caso appunto dei figli, del figlio legittimo e illegittimo. Della moglie stessa. Certo, all'interno di una dinamica di matrimonio, insomma, definito Sì, parlo come già un qua, contratto. patriarcato in senso proprio storico, Certo. intendo. Oggi molte dinamiche stanno cambiando molto velocemente e penso che la necessità sia di Gengè che di molte persone che stanno appunto esplorando queste dinamiche, sia appunto trovare delle nuove rotte, dei nuovi punti cardinali per orientarsi in questo mondo che cambia anche nel caso delle relazioni, cambia sempre più velocemente e ci mancano delle boe a volte. Sì, che poi secondo me il cambiamento di per sé, la velocità del cambiamento è naturale, va nella direzione giusta secondo me la velocità del cambiamento, perché di base quando si iniziano a scardinare un po' quei pilastri intorno, poi inizi a renderti conto, a vedere quanto poi tutto quello che c'è al di fuori di quei canoni e di quei pilastri sia fluido, e in quanto tale è difficile da afferrare, è difficile da etichettare in un modo granitico. È facile perderci, sì. È facile perderci, sì, ma... Infatti ci scrivono delle domande molto interessanti. Leggiamo, leggiamo. Allora, ciao Wombat, in una relazione poliamorosa può insorgere in automatico un discorso di gerarchie relazionali. Come fare a disinnescare questo meccanismo? Primo domandone. In una relazione poliamorosa può insorgere in automatico un discorso di gerarchie relazionali. Io sottolineerei un attimo la parola automatico, che secondo me è un po'... È la chiave di lettura. Perché bisogna capire, secondo me, forse che cosa si intende per automatico. Se quell'automatismo è legato a una naturale inclinazione del modo di viversi le relazioni, forse il poliamore non è la dinamica relazionale più adatta. Se invece quell'automatismo è dato da una serie di dinamiche, anche se vogliamo tossiche, che a livello ideologico, perché si intraprende uno stile relazionale poliamoroso, non si condividono, però a livello profondo non sono state decostruite e disinnescate, ecco che arrivano gli automatismi. Sì, che dice? Questi automatismi possono anche essere, appunto, se notati, possono essere proprio il punto di partenza da cui cominciare a lavorare. Ah, io ho questo automatismo? Non me ne ero mai accorto, finché non mi sono trovata in questa situazione, era impossibile accorgersene. Quindi viva gli automatismi se vengono notati e non perpetrati. Finché è automatico uno non se ne rende conto, e proprio quando ce ne rendiamo conto allora sappiamo che lì c'è qualcosa da indagare. Sì, infatti secondo me è molto importante all'interno delle dinamiche relazionali in generale, ora a prescindere che si tratta di una dinamica sentimentale, amorosa, poliamorosa, osservare quello che ci stona del modo in cui funzionano le nostre relazioni. Quindi in questo caso tu, persona che scrivi, può insorgere un discorso di gerarchie relazionali, come fare a disinnescare? Quindi stai dando un po' diciamo per assunto che vuoi disinnescare questi automatismi, quindi li vivi come qualcosa di problematico. Già appunto, come diceva Slim, il fatto di vedere qualcosa come problematico non rientra già più in un discorso di automatismo, perché appunto l'automatismo viene perpetuato senza neanche rendersi conto che sta avvenendo quella dinamica. Quindi già il fatto di poterli osservare, poi bisogna capire appunto da dove partono questi automatismi. Sì. Poi a me viene da dire che la gerarchia relazionale non è neanche un problema così grosso se è consapevole, cioè non è il male supremo. Può esserci una gerarchia anche fluida. Penso, in un periodo ho più bisogno di una determinata persona perché mi sa dare più ascolto, e magari in un altro periodo assume più importanza. È brutto dare delle quantità anche parlando di queste cose, sì. Però assume più importanza un'altra persona perché mi sa dare più dinamicità. Il fatto di saper comunicare queste diverse fasi è importante, senza però ricadere nel puro consumismo della relazione, ovvero tu mi puoi dare questo, allora questo mese certo. Frequento più te, e l'ascolto, la cura sono fondamentali in tutto ciò, quindi appunto la gerarchia potrebbe anche essere all'opposto, ovvero tu hai più bisogno, sei più fragile in questo momento e quindi do più importanza a te. Certo. Rispetto all'altra persona che magari ha un periodo super ok e quindi sì, può permettersi di più assenza. Riuscire a gestire tutto questo penso sia molto difficile, proprio perché non abbiamo delle coordinate. Non abbiamo degli strumenti, secondo me, tante volte. Sono molto d'accordo con quello che dici. Secondo me ci sono due cose. Innanzitutto il fatto che penso sia assolutamente normale e naturale avere qualche tipo di gerarchie relazionali nella vita. Pensi semplicemente al fatto che puoi legare di più con una persona piuttosto che in un'altra nella vita, provare effettivamente più bene, più amore per delle persone piuttosto che delle altre, e secondo me rinnegare un po' questo, a meno che non ci sia qualcuno che effettivamente vive il rapporto con la persona con cui vive in studentato da 2 giorni uguale al rapporto con sua madre, io penso che comunque sia abbastanza scontato e anche naturale e bello che ci siano dei diversi tipi di legami. Per me risulta sempre molto facile parlare di poliamore, in questo caso perché hai detto questa parola, poi magari andiamo a definire anche un attimo la differenza fra non monogamia etica, poliamore e anarchia relazionale. Ma vogliamo subito sfornare la seconda domanda che questa entità ha proposto. Vai, per capire poi di che parliamo. Sì, vai. Esatto. Seconda domanda, questa entità molto produttiva, no, prolifica, come si dice? Verbosa. Partecipativa. Partecipativa, senza ombra di dubbio. Altra domanda, in una relazione poliamorosa, come lavorare sulla gelosia? La gelosia è solo insicurezza personale? Ai ai ai, abbiamo scatenato il bombone qua. Bombone piano, atomico. Piano, siamo solo alla... Siamo al 37esimo minuto. Della prima puntata. Qua secondo me devo fare una lunga lista di cose. Allora, persone all'ascolto, innanzitutto sappiate che per quanto io sto provando ad avere un minimo di parvenza, di controllo, in realtà non ho per nulla una scaletta di questa prima puntata, quindi va bene così. La prima puntata si fa un po' il cardelone, si fa il minestrone, poi magari andremo con più calma. Brainstorming, un po' così, sì, dateci feedback e noi continueremo su questo flusso. Quindi nel flusso mi sono persa, che stiamo a dire? Della gelosia. E come lavorare sulla gelosia, e suggerisce la gelosia è insicurezza personale. Allora, innanzitutto la prima domanda che non ho ancora risposto in tutto e per tutto, che era quel discorso delle gerarchie relazionali. Gerarchie relazionali, facciamo una cosa un po' più telegrafica, un po' più spot. Gerarchie relazionali, è giusto che ci siano, succede questa cosa anche nelle amicizie, cioè per me è molto facile spesso parlare di queste cose facendo il paragone tra virgolette con l'amicizia e il modo in cui viene vissuta la nostra società, cioè banalmente puoi avere diversi e svariatissimi tipi di... Cioè, ogni amicizia è unica, cioè ogni rapporto di amicizia, così come viene definito nella nostra società, sappiamo che è unico rispetto alle persone coinvolte. E puoi avere una persona che è amica storica di una vita che però non vedi mai, e avere un legame fortissimo con quella persona, avere una persona con cui passi tutti i giorni della tua vita, ma da 2 mesi, e questi tipi di relazioni, magari anche se c'è una gerarchia, nel senso che magari se ti fanno la domandina che facevano elementari, sei su un burrone, chi salvi? Magari salveresti una e non l'altra, sembra un po' brutto però per dire così, però questo non toglie che tu vivi parallelamente questi due tipi di relazione che in modo semplicemente diverso, cioè così come sono, due relazioni diverse, non in competizione. E poi la parola competizione, secondo me, altro, è abbastanza da sottolineare. A me viene da pormi questa domanda riguardo alla gelosia, cioè siamo persone gelose anche nelle amicizie? Perché la gelosia sì, si associa alla relazione amorosa principalmente, però è un'emozione. Cioè, quando si arrossisce di gelosia, viene prima del pensiero, è una reazione che è stata, diciamo, selezionata, favorita dalla selezione naturale, qualcosa che in un certo punto si è creata nell'evoluzione, se vogliamo abbracciare l'evoluzionismo, e ha creato, e si è riconfermata perché magari in un lontano passato aveva una sua utilità di sopravvivenza. Dobbiamo chiederci se ce l'ha ancora oggi. Ce l'ha, esatto. Ma se mandassimo un piccolo intervallino musicale? Ma mandiamolo. Ma sì, mandiamolo, che dici, dai. I don't want your lonely mansion with a tear in every room. All I want's the love you promised beneath the halo moon. But you think I should be happy with your money and your name, and hide myself in sorrow while you play your cheating game. Eccoci, questa canzone, tra l'altro scelta non a caso, Silver Threads and Golden Needles, dove questa donna, scusate, il fiatone ha appena fatto una salita e discesa di scale velocissima. Silver Threads and Golden Needles, molto bellina questa canzone, ma insomma un periodo ancora la sentivo in continuazione. E questa donna che insomma esprime il suo dolore perché questo marito, insomma, dice: perché devo rimanere a casa a fare la calzetta mentre tu vai a farti le tue scappatelle di base? Dinamiche tossiche, a proposito. Più che altro, perché rimani a casa a fare la calzetta? Perché questa canzone è stata scritta negli anni 50. La risposta veloce è questa. Io vorrei aggiungere qualcosa alla domanda sulla gelosia, perché c'era una seconda parte. La gelosia è solo insicurezza personale. Mm-hmm. E poco fa, qualche settimana fa, una persona mi ha deliziato con questa definizione molto, molto concisa: la gelosia è una forma d'ansia. Bello. Non ci avevo mai pensato effettivamente, però mi torna molto. Forse perché anche l'ansia in qualche modo è legata all'insicurezza, e quindi diciamo un po' tutto collegato. E secondo me sono tutte dinamiche sono dinamiche collegate innanzitutto un po' sempre dinamiche egoiche, quindi quando c'è ansia, quando c'è insicurezza, comunque quando c'è un disagio che deriva da dinamiche esterne a noi, che siano comportamenti di altre persone o situazioni sulle quali non c'è un controllo, penso appunto all'ansia di quando ci sono delle situazioni che ti provocano ansia perché non pensi di non avere il controllo su quelle situazioni, che sono appunto dinamiche egoiche, perché si pensa che il mondo fuori da noi debba essere uno specchio di quello che c'è dentro di noi e che quindi le cose fuori di noi devono succedere in modo che siano allineate con quello che noi proviamo, e se non lo sono, entriamo in conflitto con questa discrepanza che sentiamo. E quindi, ad esempio, anche appunto la gelosia, cioè che cos'è la gelosia? Secondo me la gelosia è. Secondo me ci sono due tipi di gelosia, però: la gelosia legata all'insicurezza e la gelosia legata all'invidia. La gelosia legata all'insicurezza è quella che è l'ansia, secondo me, non è gelosia effettivamente. E quindi una sensazione di disagio e di ansia legata a dei comportamenti esterni che fanno traballare il mio senso dell'io, quindi legato alle mie insicurezze. Ci sono delle cose di me che non mi tornano, ci sono delle insicurezze che già mi appartengono, delle dinamiche esterne che sono casuali, nel senso che non dipendono da me, perché le persone fuori di me non si comportano in funzione di me, mi triggerano queste insicurezze e quindi scatenano gelosia. E poi la gelosia, secondo me, in senso stretto, che è legata all'invidia, cioè sono gelosa perché sta succedendo qualcosa che io sento di non poter avere o Poter di controllare. non poter controllare, di non riuscire a raggiungere in qualche modo. Quindi è un'invidia. Penso alla gelosia appunto di quando magari un partner vive qualcosa di bello con un'altra persona, ad esempio, appunto parlando di dinamiche poliamorose. Certo che esiste la gelosia all'interno delle dinamiche poliamorose, perché esiste la gelosia all'interno di noi come dinamica e insomma, come tutte le, direi in generale, anche stili di vita rivoluzionari, se vogliamo, non sono mai perfetti. Uno cerca di decostruire, ma non è che lo fa dall'oggi al domani, quindi poi si deve confrontare quotidianamente con le proprie dinamiche e mi Quindi, sono anche persa. parlando di gerarchia, Anche appunto, parlando di gerarchia, cioè, certo. lasciando perdere per un attimo le gerarchie amorose, parlando di gerarchie all'interno di autogestioni, penso che non ci può essere un'eliminazione totale della gerarchia, ma più un'autogestione del potere, insomma. Assolutamente. Il potere non è eliminabile, tipo se si pensa all'inglese, I can, io posso, ho il potere di fare qualcosa, sono in grado di fare qualcosa. E il potere di schiacciare una noce, cioè nel senso. Di essere determinante su qualcos'altro fuori di noi. Sì, è qualcosa con cui dobbiamo avere a che fare, e il punto è Gestirlo. gestirlo e non prevaricare e non schiacciare le altre persone. Per me comunque sono d'accordo su quello che vi ho detto prima, che la gelosia è un'emozione e secondo me è uno dei modi più sani, forse, più, sì, sani nel senso che non vanno a creare dei circoli viziosi di dinamiche tossiche e poi sensi di colpa che triggerano altre dinamiche tossiche, ma di un'osservazione di quello che ci succede. La gelosia è come tante altre emozioni, un'emozione che se viviamo come negativa cerchiamo di capire come gestirla. Penso ad esempio la rabbia, no? ci sono. Lavorare per estremi è sempre pericoloso. Da un lato, fare finta che uno può non arrabbiarsi mai e finisci semplicemente a reprimere la tua rabbia. Esplodere magari come Esatto, è una esplodere pentola a nei pressione. momenti di ira totale, oppure dall'altro lato giustificare la rabbia. Non va bene nessuno delle due. Ecco, quindi se uno pensa che la gelosia sia un qualcosa che va, sente il bisogno di eliminare comunque in qualche modo la gelosia dalle proprie dinamiche relazionali, come fare? Cercare appunto di non giudicarla perché è una sensazione naturale e normale che proviamo, però gestirla. Quindi da un lato non fare finta di essere Buddha e dall'altro neanche dire ok, però io sono geloso e quindi in base alla mia gelosia determino il comportamento delle altre persone, come sarebbe a dire, cioè, io mi incazzo se tu canti perché sei stonato. Quindi non cantare, no, magari ti calmi un attimo, regolati un attimo con la tua rabbia. Sì, se non ti piace come canto, magari fatti un giro. Però vabbè, adesso non mandiamo a rotoli questa splendida conversazione. Vatti a fare un giro. Non si può liquidare tutto così. Ci No, vuole no, ascolto, ci questo vuole. per dire appunto di, secondo me, appunto le dinamiche, cioè ci sono delle linee fra quello che ha senso affrontare insieme e quello che invece è meglio gestirsi da soli. Questo intendevo in maniera maccheronica, cioè ci sono delle dinamiche che magari appunto sono semplicemente di sfogo, di istinto, che forse è giusto trovare i modi di gestirceli da soli, quindi gestire la mia voglia di sopraffazione verso gli altri, gestire le mie dinamiche di rabbia, gestire le mie dinamiche di gelosia. Cercando appunto di capire quali sono i modi in cui io riesco a gestirli meglio e poi magari riportare queste cose con le altre persone, dire guarda, vedi che questa cosa triggera la mia gelosia. Io sto cercando di capire come fare a non farla diventare dannosa, però magari troviamo insieme dei modi per non essere esposte entrambe le persone coinvolte a questi trigger. Sì, per non sentirsi feriti oltre il limite accettabile. Sì. Certo, anche perché secondo me infatti questa cosa del limite comunque è una cosa che è Va fondamentale. condiviso, Sì, sì. bisogna essere onesti secondo me Sì. comunque sempre su ciò che effettivamente ci fa stare male e penso che ci sono poi appunto dei limiti che sono quelli naturali che escono fuori quando si tratta di persone che si vogliono bene, anche il bene è una bella parola, mi piace molto, cioè mettere sempre un po' sul piatto della bilancia quanto la mia libertà poi crea del dolore negli altri e all'altra volta di contrappasso diciamo quanto il mio dolore limita la libertà dell'altro, cioè sempre questo, no? È una bilancia, è un continuo cercare un equilibrio. Sì. Qui ci scrivono: io ho sempre vissuto la gelosia molto male, non essendo in contatto con me stessa. Con l'età ho scoperto che per me, personalmente, il modo migliore di gestirla è parlarne con l'altra persona. Dicevamo all'inizio della puntata, relazione, legame, se crea un legame con una persona, appunto comunicare sinceramente anche i propri lati più oscuri o quello che non ci piace di noi stessi, può essere ad esempio che io provi gelosia, ma questa cosa non mi piaccia, anzi è difficile che piaccia perché è un sentimento spiacevole, però imputare ai comportamenti dell'altra persona tutto la colpa di questo stare male, forse è una soluzione troppo affrettata. È una soluzione, sì, secondo me comoda. Cioè, io penso che uno dei motivi per cui le relazioni monogame sono così diffuse, hanno avuto così successo, a parte il fatto che si è costruito un intero sistema di diritto sopra, cioè la nostra è una repubblica fondata sul matrimonio, ma questo magari è un altro discorso per un'altra puntata. E, cioè, il fatto che sono comode, cioè è molto comodo stare all'interno di una dinamica relazionale strutturata in modo tale da giustificare i nostri comportamenti disfunzionali. penso ad esempio banalmente il patriarcato, qualsiasi dinamica di oppressione, cioè sono le dinamiche che giustificano la tossicità, sono comode perché non bisogna confrontarsi con quella tossicità, non bisogna decostruirla, non bisogna indagare, non bisogna fare nulla, cioè insomma io sono geloso, rivendico la mia gelosia e anzi la elevo a vessillo anche del mio amore banalmente, quindi io non devo assolutamente confrontarmi con la mia gelosia è normale che ci sia, è assolutamente naturale per tornare alla naturalizzazione. Anzi, conferma il mio innamoramento. Assolutamente, a me questo appunto rientra nelle dinamiche tossiche, cioè le relazioni tossiche. Qui ci stanno dando dei consigli pratici, ci ringrazia degli ottimi spunti questa entità e aggiunge, io credo che sia importante destrutturare la gelosia, non far di tutto per non provarla, quanto più scomporla in stati d'animo distinti. Gelosia è rabbia. Ma perché sono arrabbiata? È tristezza. Ma cosa davvero me la provoca? È paura. Ma di cosa ho davvero paura? Solo scomponendo in sentimenti io riesco ad affrontarla e non vivermela come malessere diffuso intangibile. Bellissimo, grazie, grazie mille per questo spunto, incredibile. È davvero... uno spunto pratico. Sì, uno spunto pratico e anche estremamente filosofico. destrutturare in vari sentimenti, perché sì, alla fine sono, penso che le emozioni, vabbè, per citare... studi di neuroscienze sulle emozioni e sui sentimenti, e, appunto, c'era un distinguo fra l'emozione e il sentimento. Certo. L'emozione è una reazione diretta prima del pensiero, e il sentimento è spesso un insieme di varie emozioni e delle conseguenze e delle interconnessioni anche con i ricordi, col vissuto, e sono molto i sentimenti sono molto più complessi. Sì, c'è anche una dinamica legata alla temporalità e alla direzionalità. Il sentimento di solito è direzionato e identifichiamo la direzionalità del sentimento e qualche tipo di rapporto anche con il tempo e con la durata. L'emozione invece è qualcosa di estemporaneo tante volte. Sì, e che subiamo in un certo senso. Certo, sì, pathos, passivo, sì. Non a caso. Quindi per gestirsi le emozioni, le più improvvise, le più imprevedibili e irruente, mi viene da dire che bisogna lavorare sui sentimenti, su come ci gestiamo i sentimenti, perché sono il tramite fra la materia grezza, che sono le emozioni, e poi quello che è la nostra soggettività, la nostra coscienza, diciamo. Forse mi viene in mente, sentendo questa cosa che dici, forse le relazioni sono delle strutture di sentimenti legate a un qualche tipo di dinamica nel tempo. Sì, non per essere deterministi, non vogliamo fare i chimici dell'emozione. Però sì, sono molto complesse, come possiamo noi tutti empiricamente sperimentare giorno per giorno, non solo nelle relazioni, ma per esempio il sentimento di delusione nei confronti della politica, per esempio. A caso. Della politica mainstream, certo. non di quella che facciamo tutti i giorni per autodeterminarci. È un sentimento che abbraccia i nostri ideali, come con la nostra visione utopica del mondo, e l'informazione che ci arriva sempre filtrata, e quindi è anche un tramite verso l'esterno. Se non provassimo gioia in un'azione di autodeterminazione come in una relazione amorosa, non ci sarebbe il carburante, lo certo. stimolo per vivere e per gettarsi in nuove avventure. Siamo fatti di carne. E emozioni. Emozioni. E con questa farei partire un'altra canzone. Need you here to tell me that it'll be okay. Maybe one love and two and now it's three, 3 a.m. Thinking what if it's you and me. At the end maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Coming back home in the morning, I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you would come and save me. Know that you're coming back home in the morning, I hope that you're coming back home. Look at you, eyes as soft as that ocean blue. Falling in, learn to swim like I never knew. I see it now, that everything'll be okay. With no small doses, smell of roses. Can't get enough of you. Can't wait to love on you. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you would come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. I know that you're coming back. Eccoci qui di ritorno, la nostra entità silente che ogni tanto ci dà delle indicazioni su come gestire queste dinamiche bombate e radiofoniche, ha dato giustamente un ottimo consiglio. Se vi stanno piacendo le canzoni che ascoltate, questa era Home di Figi Blu, non so, ecco, appunto, per l'appunto diceva di scrivere, magari, ecco, insomma, di scrivere sull'articolo dove poi ci sarà il podcast che si potrà riascoltare, e i titoli delle canzoni se vi sono piaciute, e poi le potete andare a riascoltare. E vorrei ritornare un attimo su un qualcosa di scritto, di tangibile, di leggibile, e fare un attimo una breve differenza fra tre termini che sono appunto non monogamia etica, poliamore, anarchia relazionale, e poi andare a leggere un attimo i principi di anarchismo relazionale che sono stati scritti da questo scrittore Andy Nordgren nel 2006 in un manifesto, appunto il manifesto dell'anarchismo relazionale. Non monogamie etiche, per non eccoci, iniziamo, la lingua inizia a rotolare sul è passata un'ora, sto parlando da un'ora, abbiate pietà. Allora, le non monogamie etiche si intendono tutti quegli orientamenti relazionali che consistono nell'avere più relazioni intime con più persone contemporaneamente, con il consenso di tutte le persone coinvolte. Parlando di non monogamie etiche, troviamo il poliamore, le relazioni aperte, lo scambismo, l'anarchia relazionale. Quindi la non monogamia etica è, diciamo, il termine ombrello all'interno sotto il quale vengono ricondotte tutta una serie di stili relazionali, di dinamiche relazionali. il minimo comune denominatore è quello del consenso, ossia le non monogamie etiche sono tutte quelle dinamiche relazionali che, a prescindere dalla loro intensità, durata, valore, eccetera, eccetera, hanno di base, cioè vengono definite in questo modo per distinguere dalle non monogamie non consensuali, che sono fondamentalmente il tradimento, all'interno, quelle dinamiche appunto in cui ci sono delle relazioni fra più persone che però non passano attraverso la condivisione e il consenso di tutte le persone coinvolte. E il poliamore invece è, diciamo, una sottocategoria delle non monogamie etiche, perché è qualcosa di un po' più strutturato, diciamo, se vogliamo. Il poliamore appunto sono dinamiche amorose e sentimentali fra un determinato numero di persone, quindi parliamo appunto, c'è questo termine che mi piace molto, che si chiama polecola, che è una un'unione fra la parola poliamore e la parola molecole, che intende i nuclei poliamorosi, che appunto si distinguono un po' dalle non monogamie etiche perché semplicemente sono una sottocategoria nella quale le relazioni fra le persone coinvolte nella polecola sono, diciamo, più stabili, definite, durature, più strutturate, diciamo. E poi anarchia relazionale, che invece, diciamo, proprio anche un'attitudine più semplicemente, sì, appunto un'attitudine, perché si tratta di persone che si definiscono anarchiche relazionali, che sono quelle persone che non considerano proprio il concetto di etichetta quando si parla di relazioni, quindi non rientrano nel definire le loro relazioni, differenziarle e gerarchizzarle, perché appunto le vivono in modo anarchico, quindi sul principio di autodeterminazione e di non prescrizione, quindi non un vissuto che non segue delle regole prescritte, ma si adatta e si conforma in base alle esigenze. E quindi appunto, parlando di anarchismo relazionale, Andy Nordgren ha buttato giù questi principi. Primo dei principi è: possiamo amare molte persone e ogni relazione è unica. Quindi anarchia relazionale considera l'amore come qualcosa di infinito e limitato, quindi quella famosa frase che si dice: l'amore si moltiplica e non si divide, quindi l'amore come un qualcosa di non una risorsa limitata, ecco, se vogliamo fare un collegamento anche con le dinamiche di competizione che viviamo all'interno della nostra società e che riportiamo anche all'interno delle dinamiche relazionali, quindi una visione come dell'amore come di una risorsa scarsa, e quindi chi deve avere accesso a questa risorsa deve entrare in competizione per averla. Qui vediamo le dinamiche capitaliste come si sono naturalizzate. Assolutamente, sì, è un processo di naturalizzazione di qualcosa che di naturale non ha assolutamente nulla. E ogni relazione è unica, quindi chiaramente ogni relazione ha valore e caratteristiche specifiche per quella relazione. Il secondo principio: amore e rispetto invece di diritti. Questo mi piace molto. L'idea che in una relazione intima i due membri abbiano una serie di diritti l'uno sull'altro viene diciamo eliminata, e che quindi il rispetto per l'indipendenza e l'autodeterminazione dell'altro si contrappone quindi a questa idea di avere un diritto, quindi c'è il rispetto per i bisogni e non la pretesa, diciamo, di diritti e quindi necessari doveri nei confronti dell'altro. Riuscire a decostruire questo è un passo molto, molto importante appunto nell'autodeterminazione delle relazioni. E mi verrebbe da chiedere all'entità all'ascolto e anche a noi magari di raccontare delle esperienze dirette appunto, sia di decostruzione sia di criticità, se ne avete voglia di condividerle. E appunto, come ci siamo trovati ad esprimere i nostri diritti e quindi richieste di doveri ad altre persone e magari quando e come ci siamo accorti, accorte di non voler più riproporre la stessa dinamica. Perché è interessante parlare del lato filosofico della faccenda, però qua vogliamo l'empirismo, vogliamo la vita vissuta, la vita vera e il poliamore di strada. Poi l'amore di strada mi piace tantissimo. E, tra l'altro, secondo principio è amore, rispetto invece di diritti, è legato molto anche al quinto, faccio questo salto, spontaneità anziché obbligo. Quindi chiunque ha la libertà di esprimere il proprio amore spontaneamente, senza alcun tipo di vincolo o obbligo, e seguendo un sincero desiderio di conoscere l'altra persona. Quindi una dimensione di ascolto, fondamentalmente. Sì. Io parlando un attimo delle mie esperienze vissute, faccio un attimo una sintesi di quello che ho capito, senza entrare per ora nel particolare delle vicende. Mi è sembrato come un attimo, difficile esprimere certi come è importante vivere queste esperienze e queste aperture, queste nuove riformulazioni delle relazioni con persone disposte a farlo allo stesso livello, o non per forza allo stesso livello, ma che uno trascini un po' l'altro e ci si dia una mano a vicenda, magari io ho più bisogno di lavorare sulla gelosia. E l'altra persona ha più bisogno di lavorare sulla trasparenza. Però forzare un partner a esperienze a cui non è preparato, preparata, può portare a un blocco, qualcosa di spiacevole per entrambi, perché poi ci si sente anche causa del dolore altrui. Certo, sì, secondo me tra l'altro questa è una cosa che avviene spesso quando, almeno a me mi è sembrato di parte viverlo in prima persona, anche di sentirlo intorno a me, vederlo intorno a me, che tante volte vedo un approccio magari a chi appunto ideologicamente si ritrova con un certo tipo di stile relazionale, che sia poliamoroso, che sia di anarchismo relazionale, che però appunto non ha fatto ancora una serie di processi di decostruzione che quindi portano a riprodurre delle dinamiche che invece sono da decostruire per stare in equilibrio all'interno di questo tipo di relazioni. Perché appunto ci si approccia un po' con un approccio ideologico, e questo secondo me avviene un po' in generale quando si tratta di scardinare delle dinamiche precostruite e che abbiamo assimilato da quando siamo bambini, cioè di pensare di poterlo fare semplicemente perché ci si crede tanto, no? In qualcosa. Io credo Una bandiera. sì, esatto, cioè, io credo fortemente in questa cosa, quindi è chiaro che poi naturalmente la farò e mi comporterò di conseguenza. Però ci sono tutta una serie di passaggi che sono anche molto, molto difficili spesso da affrontare e che secondo me è giusto fare con i tempi che sono personali, sempre appunto senza giudizio, perché poi di base se siamo cresciuti e cresciute pensando che l'amore è uno e fatto in un solo modo, perché guardiamo i film della Disney da quando abbiamo 5 anni, se siamo cresciuti con un'omofobia interiorizzata, se siamo cresciuti con tutte delle dinamiche non è colpa nostra, insomma, cioè, questo non per giustificare questo tipo di dinamiche, ma per riconoscerle come quelle che sono, cioè un'oppressione, così come la cultura della monogamia, che ripeto non è la monogamia in sé per sé, è oppressiva perché semplicemente esclude ogni altro tipo di dinamica esistente, così come l'eteronormatività è oppressiva perché esclude qualsiasi altro tipo di relazione che non sia quella eteronormata, eccetera eccetera eccetera. Sono dinamiche di oppressione e noi viviamo dentro queste dinamiche di oppressione da quando siamo nati e ci portiamo dietro tutte e tutti anche dei traumi tante volte legati a queste dinamiche, che è giusto affrontare con il tempo e anche certe volte con la delicatezza di cui hanno bisogno, quindi non giudicando e appunto affrontando volta per volta a seconda delle esigenze quali sono le cose appunto da affrontare e cioè, soprattutto secondo me anche lì secondo me forse si rientra all'interno di dinamiche un po' performative, no? Quindi devo essere la persona poliamorosa perfetta, non devo provare gelosia, non devo sovradeterminare, non devo, no? E invece magari certe volte uno magari ha bisogno di fermarsi un attimo e riconoscere quali sono le cose di cui realmente ha bisogno per poi rientrarci con più calma. Sì, è importante avere cura, come abbiamo già ripetuto più volte, e non sempre è facile averla, non sempre ci si trova nella situazione di avere la delicatezza richiesta perché tutto vada per il meglio, però neanche colpevolizzarsi estremamente perché stiamo tutte imparando, almeno chi vuole esplorare in questa direzione, stiamo imparando a fare i conti con i demoni, le sovrastrutture e la vita reale, e senza mai dimenticarci, anzi mettendo in primo piano, perché stiamo parlando di amore, stiamo parlando di altro, dell'altra persona, certo, delle altre persone. Quindi se già è difficile avere rispetto per una sola persona, se si allarga a più persone, a una com'era la molecola? La polecola. L'equilibrio in gioco aumenta di complessità e sì, a volte è meglio andarci cauti per arrivarci bene. Certo. Poi c'è un altro di questi principi che me lo trovo appunto qui, quindi lo leggo, dice: troviamo il nostro insieme di valori di base, quindi il fatto di sviluppare sempre secondo il principio di autodeterminazione la propria mappa dei valori personali e che appunto rientrano chiaramente in uno spettro, quindi non bisogna neanche secondo me cadere nel gioco opposto, ma sempre del one size fits all, quindi considerando sempre appunto che ognuno ha un sistema di valori personali e delle sensibilità personali che non devono, cioè la direzione magari appunto quella dell'ascolto, del non ricreare delle dinamiche in modo passivo, ma di interrogarsi, che però magari appunto per tornare all'inizio di quello che dicevamo, dopo un percorso di ragionamento su se stessi, uno può rendersi conto, capire che semplicemente magari le dinamiche relazionali monogame sono quelle che fanno al proprio caso, all'interno del quale uno sta meglio e perché rispecchiano il proprio sistema di valori. Infatti fra amici, amiche che hanno appunto sperimentato altre forme, magari hanno pure avuto relazioni, rapporti gay, lesbo, poliamorosi, insomma sono usciti dal seminato per poi riconfermare il punto di partenza, però in prima persona. Certo. E lì è più autentico, anzi è forse realmente è realmente autentico il fatto che un rapporto monogamo può essere veramente il coronamento del proprio benessere e dell'altra persona se è sincero. Quindi a volte mettersi in discussione, mettere in discussione appunto l'eteronormatività, mettere in discussione la monogamia, come l'avevi chiamata prima? Cultura della monogamia o mononormatività? Mononormatività. E a volte ci può far riscoprire il gusto dell'amore unico, romantico in senso quasi classico. Sì, sì. E come una scoperta autentica vissuta in questo caso a due. Certo. In ogni caso viva l'amore, comunque vogliate viverlo. Come diceva Interstellar, poi l'amore, ciò. Come diceva Interstellar? Non mi ricordo. Persone all'ascolto, voi ve lo ricordate com'era il fatto di Interstellar? Dopo 3 ore di film era tutto... è l'amore alla fine. Ho fatto uno spoiler, cavolo, non lo dovevo dire. Qua avevamo lasciato un altro intervento interessante sempre sulla gelosia. Volete che lo legga? Leggi, leggi. Allora, ci scrivono: io penso che il problema non sia la gelosia in sé, a meno che non sia estrema, vedi comportamenti tossici e manipolatori, quanto il come viene espressa, o meglio, non espressa, visto che la gelosia da una parte viene normalizzata, ma dall'altra viene demonizzata. Tendiamo magari a non esprimerla proprio, per orgoglio, perché mostrarci vulnerabili sarebbe pericoloso, e quindi tendiamo a tenere dentro finché non esplodiamo in altre situazioni. Se invece imparassimo a dire con calma cosa ci fa sentire male, cosa sarebbe molto più facile, se imparassimo a dire con calma cosa ci fa male, forse sarebbe molto più facile parlare di gelosia come un mezzo di costruzione della relazione stessa, un modo per confrontarsi e anzi di rafforzare quel legame. Bello, bello, interessante. Sì, secondo me questo è un po' il discorso di quando ci si astiene dal giudizio, no? E alla fine le dinamiche che viviamo sono sempre uno specchio di chi siamo noi come persone, quali sono... Le caratteristiche, il modo in cui viviamo le cose che viviamo, no? Pure per tornare al discorso dei sentimenti, che sono qualcosa che ci rappresenta e ci serve a rappresentarci un po' quello che viviamo, e appunto sono la gelosia, come tutte le altre emozioni, come tutti gli altri sentimenti, sono delle reazioni tante volte appunto a quello che ci succede dentro, a quello che ci succede fuori, e quindi è assolutamente costruttivo, e sono d'accordo, tante volte serve a rafforzare il legame. Io infatti, se posso condividere una mia esperienza personale, una relazione che ho avuto, che è stata una relazione lunga, complessa, molto sfaccettata sotto tanti punti di vista, perché era una relazione che coniugava amore, amicizia, distanza, tante cose insieme, difficili da gestire. È stata la prima volta nella mia vita nella quale io mi sono ritrovata a vivere effettivamente una situazione di poliamore, perché avevo una relazione con una persona e contemporaneamente questa situazione complessa da un'altra parte, che mi ha messo davanti a tanti miei limiti, solo che appunto forse anche in un discorso un po' performativo non condividevo mai con la persona in questione le le mie difficoltà effettive, i miei disagi, i miei malesseri legati a quella relazione perché la vivevo in modo appunto ideologico, quindi io dovevo essere una persona che non doveva provare gelosia e quindi non volevo guardare la gelosia che provavo, dovevo essere una persona che doveva essere presente e di supporto e mai in conflitto con l'altra persona per il legame di amicizia. Per il bene, per tutta una serie di motivi, e quindi non condividevo mai davvero quello che provavo. E la prima volta in cui l'ho fatto davvero piangendo disperata in un bagno, è stato uno dei momenti nella quale io e quest'altra persona abbiamo avuto un vero, profondissimo confronto che ci ha unito tantissimo perché. Poi, secondo me, il fatto di riuscire ad aprirsi, come dicevi tu, sui propri lati oscuri, è quello che crea dei legami davvero, davvero forti, perché secondo me i legami si creano nella vulnerabilità. E quando si condivide la vulnerabilità, perché si condivide, la nostra autenticità che è fatta di fragilità, non di certezze e di grandi valori ideali, poi alla fine. Che bello. E se posso condividere anch'io un episodio che mi ha molto colpito, mi ha fatto molto riflettere, di una gelosia da me vissuta, quando appunto ero a conoscenza di quest'altra relazione che questa persona amata aveva avuto, relazione che poi nel tempo si era trasformata più in amicizia, però quest'altro mi dava sempre un senso di soggezione, appunto perché sapevo la profondità del legame e sapevo che era stato anche un legame amoroso fra di loro, e per me continua ad essere, cioè non penso che l'amore svanisca così, Sono d'accordo. si trasforma, quindi si era trasformato in più amicizia che erotismo, però c'era e io tenevo nascosto un po' questo mio disagio. E quest'altro ragazzo una sera viene da me e mi fa: "Guarda, cioè, lo sento che c'è del disagio, cioè, mi dispiace, non voglio procurartelo, solo che sì, siamo tanto amici, io e lei, e quindi sì, non, però mi stai, cioè, ti voglio bene, non anche, cioè, ha aumentato l'amicizia fra me e lui, comunque, dirsi questo, e a me, non dico che ha costretto, mi ha messo davanti al mio non detto, e in una maniera molto delicata, molto, molto sensibile, e che mi ha fatto riflettere veramente, mi ha Bello. smosso qualcosa. Infatti, grazie a questa persona. Parla un'altra lingua, è molto improbabile che stia ascoltando questa trasmissione in questo momento. La salutiamo nonostante tutto, perché in realtà sappiamo che ascolta Radio Wombat. In qualche modo è riuscita questa persona a raggiungere le frequenze di Radio Wombat. Però è molto bella questa cosa che hai raccontato. Secondo me poi c'è una cosa che forse uno non tiene in considerazione quando si parla di cose non dette, tenute dentro, eccetera, eccetera, che poi. Come ad esempio è successo nel tuo caso ed è successo anche nel mio, perché poi nel mio caso questo confronto e questa cosa che è uscita fuori nel momento in cui l'altra persona mi ha messo davanti a delle difficoltà oggettive e che poi di fatto non esiste un non detto e non riusciamo mai davvero. Anzi, secondo me non riusciamo mai, punto, a nascondere quello che proviamo. E noi siamo delle persone, diciamo, noi esseri umani viviamo di parola e di concetto, e tante volte pensiamo che la comunicazione avvenga quasi esclusivamente su quei canali, no? Quindi qualcosa che non viene detto, qualcosa che non esiste, ma in realtà noi comunichiamo, anzi molto più, secondo me in modo molto più forte, e in tantissimi altri modi, le nostre emozioni, e quindi escono fuori. Quindi il non dire qualcosa che in realtà poi esce fuori comunque, che si sente, che è lì, è proprio l'elefante nella stanza, è proprio uno forse anche molto pragmaticamente dice: ma che senso ha? Cioè, che senso ha fare finta che un qualcosa che è così tangibile in realtà non esista, semplicemente perché non gli diamo un nome, non lo stiamo affrontando, ma è lì, è palesemente lì. Sì, qui si potrebbe aprire il discorso dell'egemonia della parola. Sì, discorso però... della comunicazione, magari ce lo teniamo. Pragmatica della comunicazione. Io farei partire. Decostruiamo una cosa alla volta. Decostruiamo una cosa alla volta. Qua inizia a essere passato un'ora e mezza. Anche perché la radio senza parola sarebbe anche difficile. Sarebbe divertente, però potremmo provare a fare una puntata non verbale. Una radio non verbale. Vediamo che succede. Tutta strumentale, versi. A proposito di strumentale, versi, un brano che conoscete benissimo. Jumping out after me. Well, you fell out concrete nearly broke your ass and you were bleeding all over the place and I rushed you out to the hospital. You remember that? Yes, I do. Well, there's something I never told you about that night. What did you tell me? While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was gonna be your last, I was falling deep, deeply in love with you. And I never told you till just now. Sono, si sente? Ah, ah, sì, ci siamo. Sì, immagino che molte persone all'ascolto conoscevano questa canzone. Mi piace molto ascoltarla. Questa è un po', questa canzone parla un po' forse di quell'amore che intendevamo prima, l'amore romantico. È molto bella questa canzone, non so se conoscete il testo, se ve lo siete mai andati a leggere, però è davvero bello. È una canzone d'amore che parla d'amore in modo molto, secondo me, autentico, appunto, per ritornare un po' ai discorsini che facevamo. Amore come casa, che mi piace molto come concetto. E quindi, per ritornare un po' sul pezzo, volevo un po' finire di leggere questi principi che sono piaciuto molto questa lettura, questo scoperto che qualcuno ha elencato in maniera così chiara, dei pensieri che io ho sempre avuto ma non sono mai riuscita a mettere bene in ordine, come in questo caso. E quindi avevamo detto spontaneità anziché obbligo. Poi abbiamo un altro principio che dice immaginiamolo finché non lo otteniamo. È molto bello. A causa dell'influenza della società in cui viviamo può essere difficile rompere con la visione tradizionale dell'amore e delle relazioni, per l'appunto. Per ottenere questo cambiamento l'autore consiglia di usare l'immaginazione. Non è molto bella questa cosa, cioè che dà anche secondo me una dimensione di gioco, che secondo me tante volte serve, no? Per eliminare un po' la pesantezza che ci portiamo dietro. Sì, qui ritorna anche il parallelo con appunto l'autodeterminazione in generale, che se si perde il gioco nella lotta la motivazione cala, e immaginarsi il sol dell'avvenire è molto importante. Immaginarsi un futuro, certo, l'immaginazione. E poi sì, appunto, è quello che, per dirla in modo molto roso, ce la fa prendere bene. Cioè, la vita va vissuta, secondo me, come un gioco. Non su tutto, chiaramente. Gioco non significa superficialità. Però viversi la decostruzione, l'autocostruzione delle cose come un bel gioco di Lego. Cioè, sono qui con la mia vita e me la immagino, e mentre me la immagino la creo. Molto bello. Tu come te la immagini, Gengè? La mia vita o i miei stili relazionali? Sì, quello che è importante immaginare finché non si crea. Non so, penso che tu non ti senta arrivata. No. Neanche io. No. Come te lo immagini, il futuro? No, per me, non a caso ho deciso di fare questa trasmissione, perché per me le relazioni sono la base della mia esistenza, della mia vita proprio. Cioè, nel senso, quando penso a ciò che mi rende felice, quando penso alle dimensioni che mi fanno pensare al futuro, per esempio, penso sempre alle mie relazioni, cioè alle persone. Cioè, per me la base della mia vita sono le persone, non sono tanto i luoghi, non sono tanto le cose che faccio, ma davvero tantissimo le persone. Quindi per me questo discorso di immaginare la mia vita, le mie stili relazioni, è tutto collegato. Cioè, l'immaginazione sul mio futuro per me riguarda l'immaginare e quindi cercare di costruire una dimensione relazionale che mi renda felice. Cioè, per me davvero quella è arrivare, che poi non si arriva mai, però davvero per me la felicità io me la immagino così, in una comunità, in un insieme interconnesso e felice di persone. Bello, veramente molto bello. Tu? Io potrei condividere un sogno che ho fatto tempo fa, in cui c'era praticamente una nuvola di entità. Non erano entità puramente fisiche, era come una nuvola di anime molto vaporosa e calda. Una specie di uovo di persone, che di anime che si volevano bene. C'era tanto calore, tanto amore, e io ci entravo e mi sentivo avvolto da questo calore avvolgente. Avvolto da questo calore avvolgente. Scusate la ridondanza. E questo sogno ha sempre segnato un po' la mia utopia, diciamo, che poi si riflette appunto sia su come mi vivo l'amore, o come vorrei vivermi l'amore, su come vorrei vivermi le amicizie. E era un po' come una sensazione di non c'è niente da nascondere. E non solo siamo qua tutti, tutte, tutto nudi, ma addirittura il corpo quasi perde di consistenza, una vicinanza al di là del corporeo o al di qua, insomma, una specie di fusione e di individualità. Non separate, cioè senza perdere l'unicità, cioè erano distinguibili queste identità, sapevo riconoscerle, uniche però amalgamate, una molecola, sì, quasi una reazione chimica tra elementi, però che ruotava su se stessa, insomma. Vabbè, è difficile esprimere questo sogno perché è un sogno, come voi sapete bene, raccontare i sogni è molto complicato. Però la sensazione di questo sogno e la sensazione che ho avuto al risveglio hanno segnato un po', sì, quello che sono ora, e quello che vorrei diventare. Che bello! Sì. Un sogno che ti ha cambiato la vita. Sì, perché mi ha dato come la tangibilità di questa sensazione, di questo sentimento di avvolgente, e in cui la mia fragilità era accolta in un qualche modo, e non c'era niente di cui temere. Che bello. Sì. Sì, veramente molto. Mia madre mi comunica che mi ascolta con nonna. Non so se state ancora ascoltando, mamma e nonna, vi mando un abbraccio. Guarda, generazioni unite. Su Radio Wombat, che bellezza. Ecco, ritorniamo ai punti. Sì, danno degli spunti molto interessanti, vero? Sì. E quindi eravamo a immaginiamolo finché non lo otteniamo. E poi, appunto, manco a fare apposta, la fiducia aiuta. La persona determina, la persona determinata ad integrarsi nell'anarchismo relazionale deve accettare l'idea che le persone intorno a sé e coloro che ami non abbiano intenzione di farti del male. Sembra una cosa così banale, invece forse non ci pensiamo mai, no? La persona, quindi se la persona adotta una posizione di fiducia invece che di sospetto, di dubbio, sarà in grado di mantenere relazioni totalmente libere e in cui sarà facile lasciarsi andare con un'altra persona se lo desidera. Quindi, appunto, le cose che abbiamo detto, cioè la vulnerabilità, l'accoglierla, non cancellarla, il non cadere nelle dinamiche di competizione, perché lasciarsi andare alla fiducia, se stiamo parlando di dinamiche di relazione, di amore, è un contro. Io questa, ad esempio, è una cosa che ho sempre vissuto, questo senso di contraddizione proprio tra amore e sospetto, amore e dubbio, amore e paura, cioè nel senso se c'è uno come fanno a esserci? Meglio, ci possono essere gli altri, ma come reazione appunto di tutte quelle cose che dicevamo, delle Dell'insicurezza, insicurezze, però sì. se parliamo di amore, lasciamoci andare a questo amore, affidiamoci che le persone che dicono di amarci effettivamente sono lì per farlo. Sì. È Non per farci del male. importante mettere in discussione le relazioni se si stanno decostruendo, però il costante dubbio è velenoso, È può essere distruttivo. distruttivo. Cioè ti autocorrode proprio. Poi dice, cambiamo attraverso la comunicazione, quindi tutto quello che abbiamo già detto, progettare impegni personalizzati. L'anarchia relazionale non implica la soppressione dell'impegno, ma piuttosto il contrario, e questo secondo me è abbastanza evidente nel momento in cui abbiamo detto che appunto fare tutte queste cose è impegnativo. È basato su un collegamento tra le persone. E diventa chiaro quale sia l'impegno tra entrambi quando ci si confronta nel caso specifico, no? E quindi ci si prende forme diverse di impegni a seconda che quali siano i desideri delle persone coinvolte e quindi anche proprio i desideri di impegno delle persone coinvolte. Quindi non dare per scontato qual è il livello di impegno, che non significa secondo me interesse o bene, ma proprio impegno in senso stretto, cioè quanto tempo, quante energie uno vuole dare a una dinamica, a un'altra persona. Sì, e di ascolto anche, per quante volte ci è capitato di dare più energie alla relazione di quante l'altra persona ne avrebbe volute Avrebbe o avuto avrebbe bisogno. avuto bisogno. E questo complica ancora di più l'iperprotettività o l'iperpresenza, possono essere richieste come no. Certo. Quindi ascoltare sì l'altra persona. Per sapere anche dosare il proprio impegno è importante. E quindi abbiamo finito i nostri 9 principi dell'anarchismo relazionale, molto belli. Non so come li stamperò, non lo so, magari mi faccio un quadretto, me lo appendo in camera. Quando qualcuno mi chiede, ma tu, no, guarda, vai al punto numero 3, al punto numero 9, tutto spiegato in modo limpido. Ricordiamo, tra l'altro, dopo questi vari excursus, alle entità in ascolto, non so se sono ancora le stesse, se alcune sono andate via, se alcune sono arrivate. Siamo sempre su Radio Wombat, al tempo delle pere. Ricordiamo appunto che si può interagire attraverso il pad che viene letto in diretta. Il pad all'indirizzo diretta wombat.vado.li si apre questo magico pad colorato nel quale condividere pensieri, insomma, interagire live perché è una diretta. Siamo tutti in diretta qua, tutto così come viene. E, tal proposito, volevo E lanciamola. lanciare. Allora, ora secondo me qui siamo ad un bivio, che determinerà il modo in cui si concluderà questa prima puntata. Lancio questo appello barra richiesta. Barra Siamo pretesa. barra pretesa. Allora, ora basta. Ora basta paroloni, basta. Lancio questo appello. Condivisioni sul pad di anche in modo appunto giocoso e scherzoso delle nostre dinamiche tossiche, sbagliate, ma senza prenderci sul serio. Cioè, parliamo di quello che viviamo quotidianamente, anche con un sorriso, andiamo un po' sul trash, condividiamo i nostri disagi quotidiani, lanciamo questa posta del cuore. E E lanciamo la posta del cuore. Scrivete lanciamo. pure a Vanvera. Scrivete a Vanvera se volete, certo, assolutamente. Siamo in conclusione, una conclusione che ha senso essere caotica. E quindi appunto ricordiamo diretta wombat.vado.li, facciamo partire la sigla di questa meravigliosa posta del cuore. Già son chi sei, stai sempre distratta, ma non devo un bei. C'ha fascina per con spini e le mocche. Si mostra un galera, buona short a me toc. Poi c'è me la sali do shock. Voglio sta con te tutto bloc. Si la città se ne gara, ce ne amo male. Ne ti venga a piglia, senza fare un rumore. Solo noi cora e cora, tu si ha voglia e durna, un silenzio contro ora, come brutta canta, con un'eclissi in tua cara, e tu venga qui. Girl, hola, ma. Estoy con mis amigos. Fuimos a dar una vuelta y hoy en la noche no llego a dormir. Pero no pasa nada. Nos vemos otro día y tú tranquila. Chao. Le persone in ascolto ci comunicano che sono appena unite. M. Ciao M. Stiamo per fare la posta del cuore, quindi se hai qualcosa di molto trash di cui parlare, sappi che è il momento. Più non trovi parole. Eccoci tornati di nuovo. E nulla, questo era un esperimento. Era un esperimento, forse questo ci è un esperimento che ci insegna un po' a gestire i tempi in maniera diversa. Forse avremmo dovuto lanciare gli spunti per la posta del cuore in maniera un po' più anticipata. E giustamente stiamo parlando da 2 ore e a un certo punto le persone all'ascolto hanno anche da andare a mangiare, no? Magari sì. Non ti sente, non ti non sente. Si vive di solo amore. Non si vive di solo amore. Ma perché dall'altro il cibo è amore, no? Il cibo, sì. È mangiare come scopare. Chi è che lo diceva? Boh. Non lo so. Una canzone. Ma per te davvero forse così? È Marco Castello. O è più che scopare mangiare? Perché è mangiare scopando. Mangiare, scopare mangiando. Scopare mangiando. Beh, che scopare e mangiare un po' hanno molte cose in comune, no? Dipende da cosa mangi. Esatto, abbuffate. C'è tutto un insieme di sapori, no? Odori. Sì. Essenze. Certo. Scopare è come mangiare, direi. Più che mangiare è come scopare. Gengetti, amiamo. Barcellona ti ascolta. Grazie. Grazie Barcellona. Un saluto all'entità in ascolto da Barcellona. Poi c'è chi ci scrive: io ho sentito di tizio che ha avuto una relazione con un delfino. Una relazione con un delfino. Oi oi. E io avevo letto questo tweet molto divertente. Questa persona che scriveva: vuoi una relazione con una donna che sorride sempre, che non parla mai e che non è mai ricoperta da peli su tutto il corpo? Forse dovresti avere una relazione con un delfino. Forse questa persona ha seguito questo consiglio e magari si è trovato bene. Cioè, beh, sono mammiferi molto intelligenti, con dei sentimenti profondi. Forse sono anche dei grandi partner sessuali. Sì, sì. Infatti l'interspecie, perché no? Appunto, decostruiamo anche questo. Chi siamo noi per giudicare? Basta che ci sia il consenso. Forse le difficoltà comunicative interspecie fanno traballare un po' questa questione del consenso, no? Vabbè, ma allora torniamo sempre sul verbale, non verbale. Hai ragione, cioè, hai ragione. Può esserci amore pur non parlando la stessa lingua. Pur non parlando affatto. C'è chi si è messo a comunicare con gli ultrasuoni, con i delfini, no? Forse perché voleva una relazione con loro. Ah, tipo una specie di messaggi... Tinder nell'Artico. Ma non vivono nell'Artico? Quelle no. Sono le foche. Hai ragione, mi sono confusa con le orche, detto ultrasuoni... Ah, c'è chi ride sul pad. chi ride. Ride bene chi ride ultimo. Mandateci queste poste del cuore, letterine. Secondo me potremmo fare questa cosa. Potremmo chiudere questa bellissima. No, che ha cancellato le risate. No. Non volevamo fare shaming. E potremmo concludere con questa prima puntata. Certo, se state continuando a scrivere, scrivete. Però andare verso una conclusione, ricordare che esiste una casella di posta che è frittole@gattini.ninja. Scrivere in oggetto, magari posta del cuore per Gengè, non lo so, scrivete il cavolo che vi pare. E condividere un po' i vostri drammi trash. Noi ce li studieremo accuratamente, approfonditamente, Maria De Filippianamente, apriremo le vostre buste e le affronteremo nella prossima puntata fra 2 domeniche. Ricordiamo che il tempo delle pere si alterna la domenica sera dalle 7 alle 21 con l'altra trasmissione che ospita Frittole Studios, una delle tante, L'Arte del Vizio. Quindi fra domenica prossima alle 7 alle 21 di nuovo L'Arte del Vizio, tra l'altro puntata specialissima perché è il compleanno dell'Arte del Vizio, quindi mi raccomando, ogni domenica non si va da nessuna parte senza sentire da The Wombat. E fra 2 domeniche torneremo col tempo delle pere con avremo troppe letterine, no? Secondo me, sì, dovremmo iniziare a fare una cernita. Ospiti, avremo il piacere ospite di avere ospite molte persone. Cosa scrivono, Slim? Scrivono che anni e anni di ricerca per comunicare, ma in realtà era solo rimorchio. Non so se conoscete i The Pills, vi consiglio di andare a vedere un loro video, non mi ricordo il titolo. E quindi in realtà questo mio consiglio non vale nulla, però hanno detto questa grande verità, che famo tutto per scopà. Alla fine è tutto per scopà. Cos'altro dicono? Io sono lontana dal padre, non La leggo. persona che ha cancellato la risata, ha aggiunto: pensavo che forse va usato più seriamente che per ridere il pad. Ma forse anche no. Ma No? sentite. XD. Io sono d'accordo sull'XD e sulle risate. Ma sì, intasiamolo questo pad. Ha cancellato anche questo. No, c'è dell'indecisione. C'è dell'ironia. Ma sì, ma siamo al tempo delle pere, tra l'altro, ragazzi, ragazze e ragazzo. Non siamo. Certo, abbiamo fatto una prima puntata molto corposa, molto seria, però era tutto su. Dobbiamo calibrare i tempi, dobbiamo calibrare tutto. Però ricordiamolo che noi qua famo i cazzari comunque. Sì. Non ti di troppo serio. Seriamente ridendo. Dateci appunto spunti per fare i cazzari ancora meglio. Ah, ribadiamo anche la possibilità di, all'interno della parentesi della posta del cuore, di dedicare canzoni. A Certo, potete dedicare canzoni a persone specifiche, cose? a A cose, animali? animali, esatto. Delfini? E se si tratta di persone, sappiate che usate acronimi riconoscibili, non Certo. nome e cognome, e affinché la persona a cui dedicate la canzone sappia che è dedicata a lei, ma senza Senza fare usare nome e cognome. l'anagrafico, insomma. Siamo una radio pirata. I pirati non usano i loro nomi. Quindi, è stato bellissimo passare Slim, quest'ora e io ti mezza ringrazio, davvero ti di ringrazio per essere stato qui al mio fianco, per aver condiviso queste 2 ore, per avermi spalleggiato in questa improvvisazione Grazie a totale. te, Gengè, per aver condotto le fila di questa puntata. E che dici? Ci lasciamo con un pezzo? Ci lasciamo con un pezzo che adesso sceglierò. Un po' lentamente andremo a chiusura di questa trasmissione. Ringraziamo tutte le persone in ascolto, davvero che ci sono state a fianco, hanno seguito i nostri divagare e è stato molto bello, davvero molto bello. Buonasera, buona cena se non avete cenato, vi lasciamo se volete continuare ad ascoltare Radio Wombat, a quello che il palinsesto ci non lo so, come si dice? Ci Non riesco, ci propone. propone, bravo, non riesco a fare 2 cose contemporaneamente. Sto cercando le canzoni, ve lo dico, sto cercando le canzoni e non riesco a parlare mentre cerco le canzoni. Quindi sapete che faccio? Io ritorno all'origine. Facciamo un qualcosa, la linearità, no, non ci piace. Facciamo un Ciclico. cerchio, chiudiamo così come abbiamo iniziato con la nostra sigla. Didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. about you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how the real thing can be. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. I dream of holding you all night, and holding you seems right. Perhaps that's my reality. A wondrous world where I